Intanto quello che sento di dire è che ce l'abbiamo fatta finalmente. Sembrava quasi un'impresa impossibile quest'anno, dovevamo farlo a maggio, è stato rimandato a novembre, prima dal vivo e ora su piattaforma. Non nascondo la nostra fatica mista a delusioni che c'erano ogni volta che c'erano cambiamenti, spostamenti e rinvii, però comunque nel nostro spirito resistente. Siamo giunti alla meta, ecco. E quest'anno, lo si diceva prima, Divergenti arriva dopo 3 anni di vuoto, dovuti a una riorganizzazione, a un ripensamento del festival stesso, che è unico, nel suo genere e resta tale, nonostante i cambiamenti, nonostante gli stimoli, nonostante le difficoltà. Divergenti è unico in Italia, sicuramente, e tra i pochi, anzi, è il secondo, con l'altro festival che c'è ad Amsterdam, però è biennale. Quest'anno Divergenti, come ogni anno, vuole raccogliere quelle che sono le questioni, quelle che sono le problematiche che attraversano il mondo trans, ma il mondo in generale. E quale delle questioni che più ci toccano, che è quella delle migrazioni. Quindi quest'anno il festival è dedicato al tema delle migrazioni sotto diversi aspetti. Chiaramente, come dire, scegliendo tra film, documentari, fiction dedicati e quindi alla questione. E al contempo, come facciamo ogni anno, dedicando dei momenti di approfondimento, dei momenti che noi definiamo di cultura e politica, perché si intrecciano le due cose, con un convegno dedicato alle migrazioni, voluto, appoggiato e sostenuto da un UNHCR, dall'UNAR, Amnesty International, da altri enti importanti, e un seminario sugli archivi trans, che quest'anno ci riguardano da vicino, sia perché il MIT sta portando avanti un progetto dell'UNAR sull'archivio trans, quindi sul materiale da noi conservato. Ecco, tutto questo insieme produce cultura, produce saperi, fa sì che Bologna sia proprio ed è per tradizione quella grande officina, quel grande laboratorio di politiche, di esperienze. E su di questo siamo fieri, siamo orgogliose e un grazie particolare va alla città, va alla regione, a Bologna, all'Emilia-Romagna, che hanno avuto e hanno questa sensibilità per sostenere, affiancare un festival di questa portata. Noi crediamo che nelle politiche che noi portiamo avanti sui diritti, nella difesa dei diritti, della dignità, della salute delle persone trans, è fondamentale una parte dedicata al confronto, alle altre forme di saperi. E il cinema sicuramente è uno di questi. Il cinema ci aiuta a smontare gli stereotipi e sull'esperienza trans di stereotipi ce ne sono tantissimi, a chiarire, ad approfondire questioni che non sono ancora del tutto chiare e soprattutto a entrare nelle questioni, a vederle dal nostro punto di vista, perché ci tengo a dirlo, fino ad ora, il mondo trans, l'esperienza trans è stata vista, osservata, letta e studiata da altri e non da noi. Quindi, gestire e costruire uno spazio come Divergenti per noi è fondamentale, quasi un involucro, un contenitore, un bel fiocco rispetto a tutto quello che facciamo ogni giorno qui nella nostra sede bolognese. Voglio aggiungere solo dei ringraziamenti che lo so che non sono scontati, ma per me sono necessari e dovuti. Sicuramente all'assessora Susanna Zaccaria, che noi consideriamo una nostra cara amica perché ci sostiene, ci sta vicino in tutto quello che facciamo, e soprattutto al suo staff che veramente ci rallegra e ci colora la vita. Ecco, questo lo voglio dire. Sicuramente alla Regione, a Fabio Abbagnato, che ci ha creduto fin da subito, noi questo messaggio lo abbiamo abbiamo sentito, lo abbiamo percepito, che c'era questa sensibilità, nonostante un vuoto appunto di 3 anni legato a vicissitudini varie. E i ringraziamenti vanno sicuramente all'UNAR, che ci ha dimostrato vicinanza, all'UNHCR e soprattutto a tutte le persone trans che collaborano e lavorano col MIT e che ci danno una mano, ci sostengono, ci fanno sentire meno sole in questo percorso che a volte sembra difficile e faticoso, che però abbiamo scelto e deciso di portare fino in fondo.